eccezioni, volevo impostare questo colloquio insieme partendo dalla continuità che io ritengo tra Papa Francesco, Papa Benedetto e Giovanni Paolo II, perché ho la sensazione un po' che molte persone forse rischiano anche un po' contorte dalla stampa di fraintendere Papa Francesco, di non cogliere, non mi sembra invece stia portando Chiesa, che potremmo dire anche il mondo. Poi è chiaro che parliamo di misericordia e speranza, perché c'è il giubileo della misericordia. E già di per questo è evidente la connessione fra misericordia e speranza, appunto come si diceva molto propriamente, possiamo sperare proprio perché Dio è misericordioso. C'è sempre speranza proprio perché Dio è misericordioso, non fa misericordia. Questo è un po' il punto centrale che vorrei comunicare. Ora, in questo senso, Papa Francesco, che sembra meno teologico di Papa Benedetto, che qualcuno addirittura oppone a Papa Benedetto, a me sembra che invece che proprio stia manifestando in modo pratico e comunicativamente efficace ciò che è stato, penso, il cuore di Papa Benedetto. Ora, un dato molto semplice, penso che non sia casuale il fatto che la prima enciclica di Papa Francesco e l'ultima di Papa Benedetto, in un certo senso, cioè scritta a quattro mani, la Lumen Fidei, la luce della fede, enciclica che era pensata a Papa Benedetto come la terza di un trittico che è iniziato con la Caritas, Deus Caritas Est, Deus Caritas Est, che potrebbe tradursi con Deus Misericordia Est, in un certo senso, che spero vedremo. Seguita poi dalla Spes Agli e poi appunto non conclusa da Papa Benedetto, ma aperta, potremmo dire, da Papa Francesco, che forse in tutto il suo magistero si sta mostrando come l'essenza della fede, quello che rende la fede luce, è proprio questa connessione profonda, una volta si diceva ontologica, in essere, potremmo dire, di carità e speranza, che è un po' l'oggetto di cui volevo parlare. Un problema però, secondo me, è essenziale, che a volte anche quello che suscita delle reazioni negli ascoltatori, soprattutto ascoltatori, formati, ascoltatori credenti, è il fatto che il latino misericordia è segnata, la parola misericordia è segnata da una tipologia legata alla miseria. Misericordia vuol dire avere un cuore che è capace, di accogliere la miseria. Ora questo appunto renderebbe in un certo senso difficile parlare di Dio come misericordioso in sé, perché per essere misericordioso hai bisogno di qualcuno che sia misero. Quindi Dio non conosce miseria, Dio è la pienezza dell'essere, grazie a Dio per questo atto di misericordia, e quindi Dio non può essere in sé misericordia, potremmo dire. Dio è misericordioso verso di noi, agisce da misericordioso, ma non è misericordioso in sé. Allora questo è un po' il nocciolo del problema. Ora, per questo a me piace fare una roba che è essenziale nell'insegnamento, cioè per insegnare, dicevo, un mio collega che è diventato emerito, quindi che ha finito la sua carriera brillantemente, è andato in pensione tanti anni come professore di Nebbio, ecco, lui diceva: io ho sempre concepito il mio insegnamento come un creare il caos nella testa degli studenti, perché potesse emergere un altro ordine in quella testa. Allora, un po' è vero, cioè noi sempre ascoltiamo partendo da quello che conosciamo, quindi in primo luogo noi giudichiamo quello che ascoltiamo, è inevitabile, per esempio siamo italiani, no? Quindi le parole le capiamo in italiano, no? Se uno legge la parola camino, in italiano camino è quello che c'è, dove si signora, madre adesso di vari figli, che stava aiutando a organizzare, diciamo, l'operare dell'organizzazione della canonizzazione di Santo Signore. C'era invece un sacerdote, allora di presente spagnolo, che è appunto una persona molto pratica, molto in gamba, molto efficace, e di fronte a un problema che stava emergendo abbastanza complesso, la signora disse questa frase: è un putiferio. Allora, questa frase è una frase finissima in italiano, perché io direi altre cose, soprattutto sotto pressione, diciamo così, no? Verrebbe, è un putiferio, non è un'altra cosa che forse si intuisce. Allora, il punto è che in spagnolo questa espressione vuol dire postribolo, in modo anche abbastanza volgare, no? Quindi che questa signora, diciamo, finissima, informatissima, stesse definendo, diciamo, la messa di canonizzazione postibile in termini volgari, è risultato abbastanza preoccupante per il sacerdote spagnolo, che, diciamo, non sapeva che questa differenza linguistica, no? Che è essenziale. Allora, per questo io pensavo adesso, diciamo, in primo luogo, di fare un po' come Gesù. Cioè Gesù, se uno legge il Vangelo, è un terrorista. Cioè Gesù è un terrorista. Perché parliamoci chiaro. Chi è che sta parlando dei pastori, no? E dice: allora, chi non molla 99 pecore nel deserto a cercare una pecora perduta? Risposta: nessuno. Ma neanche morto. Cioè, non stiamo scherzando. Cioè, 99 per una, che non so neanche se trovo, si mica scemo. No? Lì porto a casa le 99, le chiudo nell'ovile e poi, se ce la faccio, esco se scala di quella perduta. No? Mi sembra un ragionamento. Allora, noi siamo abituati, 99 pecore. No, 99 pecore è una roba folle. No? Chi, diciamo, trova la dracma perduta e poi organizza una festa dove spenderà la dracma perduta. Cioè, economico folle. Ora noi siamo abituati a pensare, le abbiamo letto molte volte certe cose, e per questo Gesù allora risultava paradossale, sconvolgente. Per questo i farisei erano un po', no? Dicendo: cosa sta dicendo questo qua, no? Poi si chiama il figlio di Dio, insomma, però ribadisce che è uomo, cioè non è pazzo perché fa certe cose, però ce l'ho da pazzi. Poi per questo, a me sembra, di fronte a una realtà che fa problema, di fronte a una realtà che provoca il pensiero, a me serve sempre tantissimo cambiare posizione. Cioè dire: no, vediamo di vedere un'altra prospettiva. No? Cioè, io lo sto guardando di qua, perché non mi metto di là? A me è sempre una roba che mi è servito tanto, che serve tanto, leggere il Vangelo in altre lingue. La stessa cosa che dicevo prima, no? Per esempio, una volta leggendo, ero negli Stati Uniti, stavo leggendo il Vangelo in inglese e stavo leggendo il Vangelo della Samaritana, e diciamo Gesù alla Samaritana in inglese gli dice: can I have a drink? Cioè, mi dai un drink? No? Cioè, una cosa sconvolgente se ci pensate, no? Cioè, che cambiare lingua aiuta, no? In questo caso dicevo, no? Cioè, in questo caso appunto anche è teologicamente, scientificamente corretto farsi una domanda: ma come si dice che si ricorda in greco? Perché il Vangelo è scritto in greco, giusto? Quindi come hanno letto la misericordia i primi pensatori cristiani, che tutti pensavano, leggevano, parlavano in greco, no? Tutti i Vangeli magari hanno un fondo aramaico, che era la lingua che parlava Gesù, ma poi sono scritti, diffusi, pubblicati in greco. Allora, cosa, come si dice il ricordo in greco? Beh, anche andando ai testi c'è una difficoltà, perché non c'è un termine unico e soprattutto non c'è un termine che include necessariamente la miseria, la mancanza. Il termine, per esempio, studiando il padre, lo conosco bene, un padre della Chiesa, che è Gregorio Nissa, che si situa nel secolo IV, un'epoca molto interessante, perché si sono superati già alcuni problemi di rilettura del pensiero cristiano, della rivelazione alla luce, diciamo, della filosofia, si sono superate delle tensioni che c'erano, come spiego adesso, Ecco, il Vangelista, per esempio, come misericordia, usa la parola filantropia, che anche noi conosciamo bene, anche se nella accezione normale filantropia viene a significare, insomma, la generosità di uno molto ricco che fa del bene agli altri gratuitamente, no? Che si preoccupa degli altri, però da una posizione di sicurezza, insomma, così, no? Quindi è un termine che si può predicare di Dio. Ora, questo termine però è applicato a Dio anche prima di Cristo, applicato a Dio da Platone, per esempio. È molto, credo che questo riferimento è molto interessante. E in concreto Platone lo attribuisce questo termine a una divinità concreta che si chiama Eros, che dopo, diciamo, la Deus Caritas Est conosciamo, perché in qualche modo il simposio, questo dialogo platonico, che diciamo è uno dei più belli, penso, di Platone, uno dei più attuali anche di Platone, è la base di questo testo di Leonardo XVI, della Deus Caritas Est, perché Eros, appunto, in questo dialogo viene definito da Socrate, in questo caso, un Dio che non è Dio, però, perché tutti pensavano che Dio è il dialogo, è fatto il banchetto, è fatto per elogiare questo Dio. E invece Socrate si alza e dice: ma Eros non è Dio, l'amore non è Dio. E perché non è Dio? Perché se è amore in quanto desiderio di un altro, indica una mancanza. Tutto il mondo greco è costruito su sta roba. Io amo perché non ho, nello stesso tempo un po' ho, perché non posso desiderare una cosa che non conosco. Per esempio, se uno non avrei avuto il vino, non può desiderare il vino. Non sa quanto è buono. Io faccio sempre la lezione con gente di tutto il mondo, se loro arrivano a Roma scoprono il gelato, la pizza, scoprono varie cose, no? Allora iniziano a poter desiderare della prendere il gelato, perché magari in Africa vendere gelato non è così facile, diciamo, no? Cioè, oppure in Siberia non so come trovare il gelato, magari ci sono, però non è che gente un po' di tutto il mondo, no? Allora tu puoi desiderare una cosa che già conosci ma che non hai, quindi devi avere o non devi desiderare. Questo è un po' il mistero dell'amore, come lo conosciamo dai luoghi, in un certo senso. Allora, questo Dio, appunto, è definito grande amico degli uomini come filantropia. Allora, io penso che quello che sta avvenendo con Papa Francesco, quello che ha fatto già praticamente nel suo magistero Papa Benedetto, è proprio superare questa, o mostrarci come la rivelazione cristiana supera questa aporia, questo nodo che c'è nel pensiero greco. Perché, diciamo, il Dio greco, se è un vero Dio, il vero Dio, Nagualman, quello che Aristotele chiama il primo motore, proprio perché Dio non può amare, perché non può desiderare. È un Dio anoressico, un Dio che sta su, da solo e da tutto. Tutti guardano lui, ma lui non guarda nessuno, perché non ha bisogno di nessuno. Ora, questo è un rischio della nostra descrizione di Dio ancora presente, come dimostra, appunto, mi sembra, no, lo scatenarsi di alcune critiche contro la misericordia, no? Che poi mettono in crisi la capacità di sperare i cristiani, perché la capacità di sperare, la possibilità di sperare si fonda proprio su questa misericordia, cioè su questa filantropia che non è un atteggiamento rivolto alla povertà dell'uomo, ma che è manifestazione di chi è Dio veramente. Cioè Dio in sé è un amore che non conosce confini, è un amore che non ha condizione. Per questo i padri greci rileggono filantropia come attributo di Dio. Dio è bello, sì. Dio è vero, sì. E Dio è capace di amore per gli uomini, ma capace di amore per gli uomini in modo assoluto, cioè in modo eterno, in modo indefettibile. Cioè il suo amore per gli uomini non è come il nostro amore, che a un certo punto viene meno, che si ferma di fronte a un confine. Ma l'amore di Dio è lo stesso essere di Dio. L'amore di Dio per gli uomini sgorga dal suo stesso essere. Quindi al suo stesso essere padre, che eternamente ama il figlio ed è riamato dal figlio. Qui Quindi ciò che tiene, ciò che fonda l'amore di Dio per noi è la sua stessa dimensione intratrinitaria, nella quale Dio è Dio perché è il Padre che genera il Figlio amandolo, dandogli se stesso, non dandogli qualcosa, ed è Padre amato perché è riamato da questo Figlio che restituisce se stesso al Padre. Per questo, dice Gregorio di Nizza, lo scopo dell'economia della carne, cioè dell'incarnazione, non è che il Signore sia soggetto alle passioni, ma che sia manifestato il suo amore per i mondi. Cioè, il senso delle cose è che si veda Dio come amore. La stessa identità di Dio è che il nome di Dio è amore per i mondi. Questo è una cosa sconvolgente anche che Ratzinger dice in un suo testo in un modo paradossale, provocatorio, un po' terroristico, no? Perché a un certo punto, commentando il dialogo tra Mosè e Dio davanti nel Corvetto Ardente, Ratzinger dice: Dio si definisce il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Ecco, vuol dire che i nomi degli uomini, che gli uomini stessi, sono diventati attributo di Dio. Cioè l'uomo, la relazione dell'uomo con Dio diventa identificazione di chi è Dio. Quello è un momento sconvolgente della storia dell'umanità, come l'incontro di Mosè con... Io adesso devo stare molto attento perché uno dei miei traumi teologici è che una volta, tra poco devo andare a Venezia a fare una conferenza con i 500 anni del ghetto su che cos'è la verità. Ora, mi sono abitato da ebrei, quindi mi sto ricordando i traumi che ho avuto negli anni con gli ebrei. Già come fisico ho lavorato moltissimo con gli ebrei e quindi ho imparato di essere molto serio, no? Che devi lavorare con pregiudizi. Per esempio, una volta uno con il quale ho lavorato tantissimo, che di cognome si chiama Israele, giusto per rivelare la sua origine ebraica, mi disse: Giulio, sai che non sia, quando qualcosa non funziona, quando c'è un problema, dicono che sempre la colpa è o dei ciclisti o degli ebrei. Io dissi: scusa, perché gli ebrei? Lui mi disse: scusa, perché i ciclisti? Insomma, è vero, però ci abbiamo un po' di pregiudizi, ce l'abbiamo, però io non sono antisemita, lo so, però lei è scontato che sia ammissibile l'antisemitismo. Però, appunto, avendo lavorato con loro, quando visitarono Roma al Festival della Cultura Ebraica a parlare con il rabbino capo di Roma sul lavoro, si capisce perché hanno invitato un teologo della Santa Croce, no? Perché Dio che lavora, crea lavorando, lavora e riposa in Dio. Poi io avevo preparato un meglio che potevo e appena apro bocca, davanti al rabbino capo, la comunità ebraica di Roma serata, sull'isola di Ferino, un contesto bellissimo, a giugno, una serata stupenda, dico: perché Yahweh, e mi blocco, perché avevo bestemmiato davanti agli ebrei, no? Perché per loro nominare questo nome, no? È un atto blasfemo, no? Quindi, ho immediatamente iniziato a usare tutti i sinonimi che conoscevo, quelli dell'esercito, ero là, ho iniziato a far vedere che mi ero reso conto della cosa sbagliata, ho chiesto subito perdono, diciamo, al rabbino capo alla fine dell'incontro. Però, appunto, quando si parla di questo incontro tra Mosè e Dio, a questo punto il Dio di Bale, è molto bello per me pensare appunto che Dio non ha un nome, Dio non ha un nome, il nome è io sono colui che è, quasi non si può dire, ma noi possiamo conoscere il nome attraverso il bene, possiamo conoscere Dio e identificare Dio attraverso il bene che ci fa, attraverso la relazione che lui stabilisce con noi, come persone concrete, Abramo, Isacco, Giacobbe. Un Dio che entra veramente nella nostra storia e che è identificabile in modo univoco proprio perché in sé è relazione. Il Dio dei nostri padri è un nome valido per questo Dio, perché quel Dio lì è la Trinità, quindi è padre in sé. E rende noi capaci di essere padri perché lui è padre. E questa paternità, vedete, che è un po' la chiave, secondo me, di questa misericordia e questa speranza. Quindi Gregorio di Nizza, per esempio, rilegge la filantropia, questo nome di Dio, l'amore per gli uomini, in base a una categoria, una seconda categoria potentissima a livello filosofico, molto, molto centrale per gli stoici, che è metapatheia, che vuol dire impassibilità. Cioè Dio deve essere impassibile. Cioè, e Dio non può cambiare idea, non può arrabbiarsi, non può essere sottoposto a un movimento passivo, come appunto la passione indica. Quindi era un dato filosofico comunemente accettato che la patria dovesse essere un attributo di Dio, una cosa che identificava Dio. Ma questo è chiaro che leggendo la Bibbia fa un problema, perché il nostro Dio è un Dio che si arrabbia, un Dio che si pente, è un Dio che ama, che si appassiona, non è proprio un Dio, diciamo, tranquillo, un Dio un po' meridionale, un po' meridionale, cioè un Dio che si arrabbia, no? Che se lo turbi troppo ne paghi le conseguenze, però un Dio che ama senza misura. Io amo moltissimo il profeta Osea, perché è un profeta un po' peculiare, perché Dio gli dice: Osea, c'ho una missione per te, dimmi, Signore, devi sposare una prostituta. E Osea dice: scusami, non ho capito male, no? Devo andare a Ninive a dire che le prostitute sono per te. No, no, no, devi sposare che è una prostituta. No? I padri, infatti, di fronte a questo testo dicono: scusa, cosa vuol dire questo testo qua? Vuol dire che dobbiamo sposare il prostituto? Quanti? Vuol dire che la prostituzione muore, no? Chiaramente no. No. Cosa stai dicendo? Ma il senso è appunto che Osea deve praticare con la vita il fatto che Dio è misericordioso, nel senso che è fedele all'alleanza e non la si vede. Cioè che anche quando tu sei infedele al suo amore, lui continua a essere fedele al suo amore. Quindi lui, pur sapendo che sei una prostituta, cioè che ti dedica all'idolatria, lui ti continua a essere fedele, ti sposa sapendo che lo tradirai. Perché? Perché lui è questo, è che lui è amore. Ora, questa roba qui ti apre la speranza in modo radicale. Una speranza radicata, potremmo dire, nell'eternità. C'è un autore che io consiglio molto adesso, che è Nabil Rahman, che ha scritto, che è un filosofo francese, scritto un libretto molto bello che prendendo proprio un'immagine platonica che si intitola Ancore nel cielo, cioè il mondo non è appoggiato in basso, il mondo è appoggiato in alto, l'uomo è un albero che ha le radici in cielo. Noi in un mondo dove non c'è il radicamento di questo amore che non conosce condizioni, noi stiamo male, noi veniamo giù. E questa è l'educazione dei figli, questa è una famiglia così importante, cioè quando uno in famiglia conosce un amore assoluto, cioè, quando la famiglia è uno spazio, uno sa che può essere sbagliato, ma che voglio bene lo stesso, però la persona diventa fortissima, con le sue debolezze, fortissima. Perché? Perché il suo essere non è condizionato da comportamenti. Oggi non so se vi succede, ma nella mia pratica pastorale continua a rinvenire costantemente paura di essere sbagliati, di essere inadeguati, di non andare bene, di essere inadempienti. Non ho pagato tutte le tasse, quindi una tasse quando scade, no? Adesso ho questi problemi, non devo seguire le cose di mia madre, non devo mio padre, e devo continuare a dire sarà. A Betty quando paghi la tasse, non capisci cosa fa il mio cugino e al paesello, e dici, ma di cosa si parla, come si perché, come deve sapere, no? Per lì se li sentissi inadempienti, una cosa bellissima oggi. La cultura dello scatto di cui parla Papa Francesco non è un'immagine, è una descrizione della realtà. Ora il problema appunto è che viene venuto cristianesimo, che siamo in una società sempre più moralista e sempre meno conscia, che sempre meno ha esperienza di questo amore che non viene detto. La patria, per il Gregorio Nisso, che cos'è? È sostanzialmente il vero apatosi, il vero impassibile è Cristo sulla croce, prova di un paradossale pazzesco, se ci pensate, cioè la passione di Cristo, Cristo che viene crocifisso, flagellato, eccetera, eccetera, che sta subendo la passione più grande che si possa immaginare, è colui che rivela e rende presente l'impassibilità. Dici, ma Gregorio Nisso cosa stai dicendo? No? Qui ci sono due termini contrari. E cosa si intende qui per impassibilità? Si intende il fatto che la croce rivela che Dio ha un amore inamovibile. Cioè che anche se tu gli prendi il figlio, glielo massacri, glielo flagelli, glielo torturi, glielo crocifiggi, glielo uccidi, lui continua ad amarti. fedele alla sua terra, perché lui è questo, lui è questo uomo. E allora, diciamo, l'impassibilità di Dio non viene più letta come impossibilità di essere turbato, via mano, continua a essere letta così, ma a questo si aggiunge una nuova dimensione, cioè il fatto che il suo essere è un essere capace di amare l'altro in modo infinito, indipendentemente dalla risposta dell'altro. Da qui nasce la speranza. Perché Dio è la nostra speranza? Perché non siamo noi la nostra speranza. Perché io non sarò amato e salvato se mi comporto bene, ma sarò amato e salvato se mi affido a lui, se sto nella relazione con lui. E guardate che anche spiritualmente, lo dico come direttore spirituale, nella crescita spirituale ammettere di non meritarsi l'amore di Dio è un passo fondamentale, cioè una cosa difficile, perché sempre noi vogliamo comprarci l'amore, essere degni dell'amore, ma arrivare a dire a Dio come buona donna, guarda, io non sono degno di essere amato da te, io sono un delinquente e me lo merito, vero? Non come te che sei così, ma io mi affido a te. Riconoscere Dio in croce, cioè nel farsi presente della mia miseria, è la loro affetto. C'è un dialogo molto bello tra Suor Faustina Kowalska, che per caso apostola della Divina Misericordia, e Gesù, molto interessante. Suor Faustina dice: Gesù, io vorrei dare di più. E Gesù gli dice: ma Faustina, tutto quello che mi puoi dare l'ho dato io, cioè scusa, mi dare di più di tutto io, però c'ha ragione, eh? Scusate se faccio un po' il dialogo di Anzolo, sono Faustina, vengo dalla Provoce, adesso non vorrei mancare rispetto a nessuno, ma Gesù dice: ma c'è una roba che mi puoi dare che è proprio tua, solo tua. Che cos'è? I tuoi peccati. I peccati sono roba tua, proprio tua, tua, tua. Ora, anche la corrispondenza di giustizia e misericordia è questa. Cioè, il buon ladrone è giusto o non è giusto? Chiaramente è in croce perché è giusto. E riconosce di meritarsi quella croce. Quindi che è giusto che lui sia in croce. Nello stesso tempo, stando in croce, proprio perché riconosce di essere ingiusto, diventa giusto, affidandosi a colui che è ingiusto. Cioè, la sorgente della giustizia. Colui che rende giusto colui che ama. Questa è la differenza tra l'amore nostro e l'amore di Dio. L'amore di Dio rende bello colui che ama. Noi amiamo ciò che è bello. Non possiamo amare solo ciò che è bello. Poi, in quanto immagini di Dio, uniti a Dio, siamo capaci di questo altro amore vero, che è l'amore che rende buono ciò che ama, che rende bello ciò che ama. Questo è un salto che richiede di essere uniti a Cristo. C'è anche un racconto di Mario di Cuba, molto bello, della tradizione classica, provengo da un libro che è appunto uno dei cuori dell'insegnamento classico. Questo è un movimento molto interessante, ci sono ebrei mistici che vivono in mezzo al mondo lavorando, quindi sono dei rabbi che fanno i falegnami, fanno i ciabattini, cioè non è che fanno i rabbi, sono laici che lavorano in mezzo al mondo e cercano di vivere la scrittura lì. E a un certo punto chiedono a un rabbi sul giudizio finale come sarà, come si incontrerà Dio nella tua vita. Cioè, guarda, quando io apparirò lì, mi chiederanno: hai studiato la legge, tutto quello che hai studiato? Io dico: no, signore, no. Ti sei qualificato, hai fatto le evoluzioni come dovevi fare? Io dico: no, io non lo faccio. Hai fatto le demosine come dovevi fare? No, no, non lo faccio. E allora mi diranno: hai detto il vero, per amore alla verità, entra nel regno dei cieli. Ma questo è una roba di una potenza pazzesca. Cioè la misericordia e la giustizia non si pongono, in questo ci può aiutare moltissimo Ambrogio, che è un altro padre della Chiesa, quindi passiamo all'ambito latino, che si muove in un contesto di misericordia, appunto, è il vocabolo che porta dentro questa miseria dell'altro, quindi sembra rendere difficile applicare a Dio il termine, invece non avviene nel mondo greco. Ecco, Ambrogio, che era uomo di governo, che continua a amministrare la giustizia perfino nei confronti dell'imperatore, del Teodosio, che a un certo punto lui deve scomunicare. Nel 390 l'imperatore Teodosio dà un ordine molto duro, perché per paura che Tessalonica, diciamo, facessero affari con i Goti, un fianco un po' scoperto dell'impero, Teodosio dice: massacrate tutti, anche i civili, non importa, sono cristiano, e poi tutti per sicurezza, diciamo, si sa mai che da lì poi ci entrano, iniziamo a zerare, a convincitare Tessalonica. E ora Ambrogio lo scomunica, dice: tu imperatore, prima sei cristiano, ora sei imperatore, non puoi uccidere gli innocenti, puoi far uccidere i soldati, non i civili, quindi hai commesso un peccato, sei fuori dalla comunione ecclesiastica. Richiedeva una certa forza questo atto, diciamo, anche perché l'imperatore poteva dire: e tu sei fuori dalla vita, perché mando i miei soldati, dai una testa, facciamo un altro vescovo, cioè non è mica un problema. Non sarebbe stata la prima volta che cadevano. La storia è piena di vescovi santi che, come diceva il mio maestro, il primo luogo deve essere via, cioè il primo attributo del vescovo è che deve avere tributo, scusate l'espressione, però diciamo così è chiaro, no? Cioè deve sapersi piantare di fronte alla verità, no? Ora, quando però nel 325, cioè 395, muore l'imperatore, il 17 gennaio, un mese dopo, il 25 febbraio, Ambrogio predica l'omelia del suo funerale ufficiale, ovviamente. E Ambrogio qui continua a parlare del fatto che giustizia e misericordia vanno insieme. Lui già ha in un altro testo una distinzione molto bella tra giusta misericordia e ingiusta misericordia. La misericordia giusta è quella che si applica con chi riconosce il peccato, quindi quello che diceva il mondo. Qui va ancora più alla radice, no? Perché sostanzialmente in questo testo dice: guardate che nel Coelet è scritto non essere troppo giusto, Coelet 7,17. Questo testo è importante, eh? E dice: perché misericordia e giustizia sono la stessa cosa, non sono due cose che dobbiamo equilibrare, no? Quando fai la torta ci metti un po' di farina, un po' di uova, se esagero con una, un po' di acqua e farina di mischiare. Non è così, no? Proprio perché Dio è misericordia e Dio è giustizia, queste due cose devono essere più coincidere. Poi, in che senso? Perché non è banale a prima vista. E lui dice: guardate che noi, in primo luogo, siamo figli. Questo vuol dire che il nostro essere è di un altro, è dono di un altro. Quindi noi siamo e abbiamo, possiamo dire Dio, perché un altro ci ha dato quello che abbiamo. E quindi dare a ciascuno il suo non può prescindere dall'atto di giustizia, no? Non può prescindere dal fatto che quel suo è di quella persona lì perché l'ha ricevuta da un altro. Ora, questa cosa è meravigliosa per me perché passa dentro la verità. È una cosa che vale per noi di uomo e figlio. La nostra vita l'abbiamo ricevuta da noi. Faustino, cosa di cui dare che non sia mio? Cioè la vita ci è data Dio, ci ha dato i nostri genitori, siamo qui perché tanti prima di noi hanno donato a noi quello che abbiamo. Quindi dire mio è un atto che implica riconoscere che questo mio è un dono. Quel dono è una cosa che è tale perché continua a parlarci di qualcuno che ci ha donato quella cosa lì, una cosa che non era vostra, che adesso è nostra, no? Perché era di un altro e quell'altro ce l'ha data. Ora, in questo senso, applicare la giustizia vuol dire ricordarci sempre che tutto ciò che abbiamo è di un altro, quindi che è solo nel vivere nel dono reciproco che possiamo essere, perché Dio stesso è padre che genera donando se stesso e non qualcosa al figlio. E il figlio stesso è Dio, nel senso che riceve il dono dal padre e lo ridona. Tutto quel libretto che si citava prima è centrato sull'idea che io prendo da Filone e poi rivengo, è divenuto moltissimo nel Benedetto XVI, cioè che l'essenza della vita è ridonare il dono, e quindi le padre dona se stesso al figlio, il figlio è figlio perché è immagine del padre, quindi ridona se stesso al padre, in modo tale che mio e tuo nella Trinità coincidano. Io sono nell'altro e l'altro in me. Punto. La radice della misericordia che cos'è? La radice della misericordia è l'amore eterno, assoluto, onnipotente che il padre ha per il figlio e con il quale genera il figlio. Cioè, dentro la Trinità c'è questo mistero di un amore imperturbabile, nel senso che è onnipotente, che è infinito. E il figlio e Dio proprio per ricevere questo amore per rinnovare. E noi, in quanto identificati col figlio, siamo, abbiamo origine da questa misericordia radicale, misericordia assoluta, se vuoi, misericordia eterna, che non richiede una miseria, perché nella Trinità non c'è miseria, nessuno perde niente nella Trinità, ma che è il fondamento della misericordia, cioè della capacità di amare chi è misero, e questo è il punto perché siamo in contatto con una fonte, con una sorgente da nulla assoluto. 17 maggio, appunto, quando nel 92, quando identificarono San José María, io fui colpito, questo vi confido, che è anche importantissimo per la mia vocazione, perché allora non ero nel Cosenio, ovviamente lo sacerdote, perché sentì questa canzone, Cantemos al amor de los amores, cantiamo all'amore dei demoni. Ora l'idea che Cristo, e quindi il Padre, è l'amore di tutti gli amori, cioè la sorgente del mio amore per me, è la chiave del mondo, diciamo così, che è il senso della vita. No? Perché appunto io posso amare chi misero, posso rischiare me stesso, posso fare come il buon samaritano che si ferma a accudire questo malato, che può essere un ladrone, che può essere una trappola, che mi sporca, che mi fa perdere soldi, che mi fa a mettere in gioco la mia vita, perché c'è una sorgente della vita. Io posso essere misericordioso perché posso sperare in mio padre. Ora, cosa succede se noi stiamo in questa logica che per me è prioritaria? Se noi guardiamo il mondo con gli occhi di mio padre, che prima o dopo sentiamo meno la responsabilità. Io voglio suggerire una frase a Papa Francesco per il prossimo giubileo dei sacerdoti, che sarà il 2 giugno, perché secondo me, diciamo, il pigiama del sacerdote dovrebbe essere una maglietta che vende una piazza della Luna, che è una maglietta che così dice, sono varie magliette, c'è quella con gli sposi, con lui con lei col sorriso, lui con la faccia triste, questo game over, ci sono varie magliette che uomo le panza, uomo le sostanze, sono meno teologicamente rilevanti, no? Però questa qui, che secondo me dovrebbe essere il pigiama dei sacerdoti, ma forse anche il pigiama dei papà, diciamo, delle mamme, è Dio esiste, rilassati, non sei tu. Perché è vero, nel momento in cui uno mette al mondo un figlio, nel momento in cui uno pensa di essere padre, e fai continuo i suoi limiti, nessuno può essere padre se non il padre unico che decide. Allora, l'unico modo di vivere questo amore è appunto avere speranza in questa sorgente, cioè iniziare a ragionare attraverso la contemplazione, attraverso la preghiera, iniziare a guardare il mondo alla luce di questa presenza, di una sorgente d'amore nel mondo, che non è scontata, che oggi ci dimentichiamo. Una volta si diceva che i figli nascevano con la pagnotta sotto il braccio, non so se ricordate questa frase, mia nonna aveva 13 figli, faceva la levatrice, quindi eravamo in famiglia, perché la mirata del Duce di famiglia numerosa, cioè che è ancora esposta, siamo alla casa a Palermo, cioè perché si potevano fare tanti figli? Perché c'è una speranza. C'è la speranza perché c'è l'amore. Oggi invece, io faccio anche una trasmissione alla radio, una radio di calcio romano, una romanista razziale, sento le chiamate che arrivano, cioè metà trasmissione per un'ora è dedicata a parlare con gli ascoltatori che telefonano, e la domanda che sempre ti dicono quando si parla di figli, le provocazioni, dicono, ma io farò figli se sono sicuro di renderli felici, cioè, devo fare figli, no? Come fai a essere sicuro di vedere figli? Io devo avere abbastanza soldi da mandare all'università, ma cosa sai della vita? Non è così, non funziona così. Il mondo funziona in un altro modo. È che il figlio che porta, perché ti parla da soggetto, io vi confesso anche, scusate se è la seconda confidenza, che quando sono in ultimo anno, quando sono un po' stanco così, mi faccio invitare a cena da amici miei che hanno bambini piccoli. Anche quando ho un po' di difficoltà nell'educazione, io faccio sta roba. Perché a me vedere i bambini piccoli mi cambia l'esistenza. Perché hanno un modo naturale di pensare il mondo a partire dalla sorgente d'amore che sono i genitori e che è anche Dio, pazzesco. No, però la cena da un economista sfegatato, abbastanza, diciamo, un ultra sangue cattolico, un comunale, che diciamo, non è uno brilla per diplomazia, diciamo, per le sue situazioni, e stanno mangiando un bel piatto di pasta, eccetera. C'era soprattutto sua figlia che non parlava ancora. E tutto il suo capacità di discorsiva era ta ta ta ta ta ta, cioè, grandi discorsi la mamma, il papà, il sacerdote ospite, ta ta ta ta ta ta, no? Dice che bello, la cosa bellissima è che intanto si girava sul quadro della Madonna e faceva la mamma ta ta ta ta ta, no? Cioè una bambina che parla con la Madonna come se fosse qui, perché in quanto bambina è abituata a pensare a partire da questa sorgente, quindi il suo essere radicato nella speranza perché vive nell'amore. Ora, questo, diciamo, concludo con questo mi sembra veramente, non è una questione di prospettiva, di moda, di opportunità nel parlare del cristianesimo, questo è il cuore. Cioè qui noi siamo in un'epoca dove noi dobbiamo tornare al cuore, come dice Papa Francesco, questo non è un'epoca di cambiamenti, questo è il cambiamento di un'epoca. Quando cambia un'epoca, ce l'ha insegnato Guareschi, cosa si fa? Si tiene insieme il buono. Guareschi ha un racconto molto bello, da contadino, appunto, si domanda, ma scusa, noi abbiamo il grano, è arrivata la piena, i campi sono tagati, non avremo raccolto. Questo grano qua è il nostro male. Cosa fa il contadino di fronte a questa cosa? Se lo mangia? No. Tira la cintura e conserva il buon seme per ripiantare. Lì la scelta, lì la. Ed è un atto, appunto, profondamente paterno, un atto il tempo superiore allo spazio, quello che diciamo, non è pensare ad oggi, ma è investire per il futuro. Allora, io penso che Papa Francesco, in armonia con Papa Benedetto e con Giovanni Paolo II, vengo da Rovina, ho insegnato 25 anni, ho vissuto questa conferenza con un pellegrinaggio in un certo senso, semplicemente sta facendo il padre, cioè ci sta parlando di questa sorgente d'amore infinita, ci sta quasi provocando come Cristo, magari anche lasciandoci un po' perplessi, no? Anche un po' scandalizzandoci, ma perché ci parla della verità, a guardare l'essenza, il cuore. Perché in un mondo come quello moderno lo stiamo perdendo. La Chiesa si preoccupa molto, scusate, dell'unica pecora rimasta nell'ovile alla quale fa i bigodini, con questa immagine geniale, no? Questa geniale immagine prende, fa i bigodini alla pecora, se ne sia, no? Cioè, e le 99 sono andate. Le 99 vanno per i burroni, no? Noi stiamo a cercare di essere bravi quando noi abbiamo invece proprio nelle nostre miserie la via per non c'è Cristo. Si vede proprio nei nostri peccati, nel non andare bene, nel dire guarda, anche se non vado bene, sono amato da Gesù. Questo è il punto. Questo è ciò che suscita speranza. Questo è ciò che fa nascere i bambini, non sono quando sarò perfetto tra un figlio. Ma no, no, devo essere bella per mio marito, perché se no mi amo più, questo con io non è amore, cioè, con io non è amore. L'amore è la sede di conoscere, di vedere oltre, di vedere dentro. Riconosce un bene che non è apparente, ed è ciò che invece manca oggi in un mondo assolutamente superficiale, in un mondo che ti tiene sulla superficie. Allora, in questo senso, veramente io dico una grande paternità in questi papi, che sono papi, una grande unità di disegno, e vorrei anche spingere davvero a leggere i testi, non la stampa, i testi. Leggere, per esempio, la Amoris Laetitia, leggerla davvero. Non quello che ha detto Casper, quello che ha detto, allora, adesso non diciamo altri nomi, Casper di Vente, no? Ma c'è, cioè, non questo, cosa devi fare? La misericordia non si fa per credere, è scritto nel suo libro il nome di Dio misericordia. Cosa significa? Questo significa quello che stiamo dicendo in un certo senso. Spero che questo possa servire, ma adesso sono 46 minuti, ho pietà di misericordia, di dare un po' di speranza.